Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempo di coronavirus sono e saranno 24 ore, diciamo così, molto molto delicate sia sul fronte interno che sul fronte estero. Perché lo dico? Perché c'è stata la convocazione da parte del governo delle parti sociali in corso e poi verso le 19, se non cambieranno gli orari, vi sarà quella con le regioni e poi alle 21 invece un consiglio dei ministri. Chiaro è che in questo momento si discute soprattutto dell'articolazione della fase 2 e quindi anche qui da un lato alcune attività di impresa che potrebbero, stante alcune indiscrezioni uscite, aprire già dal 27 e poi la riapertura per quello che riguarda invece il resto del paese dal 5 maggio in poi. Non abbiamo ancora dettagli, chiaramente, non tanto sulle attività d'impresa, ma anche e soprattutto sulla mobilità delle persone, quindi di questo parleremo con gli schemi che stanno emergendo, le indiscrezioni che stanno emergendo. Però fronte delicatissimo anche per quello che accadrà domani, quindi il Consiglio europeo, il dibattito sul MES, ma soprattutto sul Recovery Fund, la proposta che è arrivata dalla Spagna, appoggiata, se abbiamo visto, anche dalla Germania, di un'obbligazione irredimibile, cioè a scadenza illimitata, in cui vai a guadagnare solo sugli interessi e che puoi vendere, un'ipotesi di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, nelle settimane scorse con i nostri vari ospiti. Per quello che riguarda invece l'andamento della borsa oggi, e poi parleremo anche di spread, oggi c'è un recupero su tutti i listini e anche Milano, più 1,5%, Milano, Parigi più 1, Francoforte più 1,30, Londra più 1,90, Dow Jones più 1,60%. C'è un recupero forte anche del petrolio, che è arrivato forte, però sempre su livelli, il WTI a $16 il barile, ha recuperato il 40% oggi. L'oro, qualcuno mi chiede dell'oro, è fermo a $1,710 l'oncia. Parleremo poi anche di alcuni rapporti con la Cina, perché è intervenuto in un'intervista a Sky TG24 il ministro degli esteri Di Maio, che ha chiarito almeno che l'Italia è nell'alleanza euroatlantica, nella NATO e nell'Unione Europea. Poi vi arrivo, perché molti hanno fatto notare che invece la posizione di Francia, Australia, Gran Bretagna, anche in parte la Germania, oltre che gli Stati Uniti, è molto diversa nei confronti della Cina. Però questo nei giorni in cui lo spread invece continua a viaggiare sopra i 250 punti, 263. Per quello che riguarda invece la fiducia dei consumatori, dato di oggi la riporta a livello europeo, è un vero e proprio crollo della fiducia, la riporta a livelli della crisi del 2009, e temo che non ci fermeremo qui. Vi sono anche delle iniziative anticipate dal ministro Patuanelli sugli autonomi, altre due mensilità con il decreto di aprile. Vedremo se arriveranno a 800 euro e l'ipotesi di un ristoro diretto alle SRL sotto i 10 dipendenti per quello che riguarda i 600 euro. Daremo aggiornamento anche su questo. Per quello che riguarda i prestiti, 25.000 euro. Allora guardate, qui arrivano a me personalmente segnali discordanti, alcuni li hanno avuti, i dati aggregati dicono che le banche stiano lavorando, altri lamentano il fatto di non aver ricevuto ancora i 600 euro ma di avere difficoltà sui 25.000 euro di prestito. Mi scrivono alcuni bancari che dicono: guardate che stiamo lavorando moltissimo per la liquidità straordinaria e siamo anche noi a ranghi ridotti e stiamo lavorando in situazioni emergenziali, quindi chiediamo ai clienti un po' di pazienza, perché i colleghi del credito, delle piattaforme informatiche stanno lavorando per le erogazioni, si spera di avere le prime erogazioni, parliamo di 25.000 euro a partire da domani. In effetti anche il modo in cui stanno lavorando le banche è un modo molto difficile in questo momento, visto appunto le misure di sicurezza che devono rispettare anche loro. Partiremo con il debito italiano. Perché? Perché i buoni a 5-30 anni offerti dal Tesoro hanno raccolto ordini per 110 miliardi, erano emessi 16 miliardi. E quindi pur le, diciamo, le situazioni un po' difficili, per esempio penso al titolo a 5 anni, l'andamento è stato buono. I rendimenti lordi però sono aumentati all'1,92% i BTP a 5 anni, al 3,12% quello a 30 anni. In questi due giorni, in queste 48 ore cruciali, ho detto 24 ma potevo dire anche 48, perché? Perché venerdì arriverà invece il giudizio, venerdì sera, sul debito italiano da parte di Standard & Poor's. Al momento siamo a BBB, cioè due tacche sopra livello spazzatura. Faccio notare che Fitch ha confermato lo scorso 7 febbraio la tripla B, però era il 7 febbraio, e poi l'8 maggio toccherà anche a Moody's. Il livello dello spread è un livello che non si vedeva dall'estate scorsa, il rendimento del decennale è al 2,17% in questo momento, e di questo parleremo in apertura, citando anche le ipotesi che stanno circolando e appunto la proposta spagnola di debito perpetuo, che sembra avere l'appoggio dietro anche della Germania. Faccio notare una cosa sui titoli perpetui, visto che parliamo spesso di Olanda per l'opposizione intransigente che ha messo l'Olanda all'idea di condividere il non il debito, ma le garanzie sul debito. Anche quando si parla di corona bond, di euro bond, non si è mai detto che il debito italiano va pagato dagli olandesi. Si è detto che l'emissione, quindi la garanzia del debito, non è dello Stato italiano ma dell'Unione Europea, che è una cosa un po' diversa. Poi ognuno si paga la sua quota. Però faccio notare che proprio l'Olanda aveva e ha tuttora, pensate, i più antichi titoli perpetui. Addirittura è stata la prima nel 1350, ma esistono ancora alcune obbligazioni che continuano a pagare interessi olandesi emesse nel 1624, quindi dimostrazione che il debito perpetuo si può anche fare. Però ne parleremo adesso in apertura. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Invece mi scrive che i 600 euro sono arrivati, ma non la cassa integrazione in deroga. Qualcun altro mi fa notare che da questo punto di vista chiede se ogni volta bisognerà rifare la domanda. Sì, per i 600 euro ogni mese penso proprio di sì, vedremo se saranno 600 oppure 800. Ma andiamo con ordine. Prima, come sempre, l'economia di carattere internazionale. L'ONU lancia un allarme, il mondo rischia una carestia di proporzioni bibliche. E poi veniamo alla Cina, che in questo caso riguarda sì un tema di carattere politica estera, ma anche di carattere economico. Perché lo dico? Perché il procuratore generale del Missouri, Eric Schmidt, ha presentato una causa contro il governo cinese per la perdita di vite umane e le conseguenze economiche nel Missouri. È la prima causa intestata da uno Stato contro la Cina, indirizzata dal governo di Pechino. Sono accusati di aver nascosto informazioni, arrestato gli informatori e negato la natura del virus. Ci sono negli Stati Uniti almeno quattro le principali class action federali avviate. Una è partita dalla Florida, per mano di uno studio legale Berman Law Group. La differenza tra class action e il Missouri è che il Missouri è lo stato del Missouri che fa causa alla Cina. Ci sono poi quattro class action, dicevo, una in Florida, l'altra in California, dove alcuni imprenditori e una grande società di revisione stanno cercando di rappresentare tutte le piccole imprese dello Stato. E poi ce n'è anche una in Arkansas, o Arkansas come dicono gli americani, contro le bugie e la corruzione del Partito Comunista. Allora, la Cina replica alla mossa del Missouri, la definisce a dir poco un'assurdità priva di base fattuale e o legale. Il portavoce del ministro degli esteri cinese ha fatto notare che la risposta cinese al coronavirus non è sotto la giurisdizione dei tribunali americani, e rilevando che sono state date informazioni a Washington sulla vicenda del 3 gennaio. Faccio notare che domani sarà ospite di Alessandro Milan, l'avvocato della SRL che gestisce l'hotel della Poste di Cortina d'Ampezzo, uno dei più famosi, forse il più famoso, il più antico di Cortina, perché anch'esso ha fatto causa, ha citato per danni il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese davanti al Tribunale di Belluno per non avere tempestivamente segnalato all'OMS lo stato del diffondersi del virus e i suoi gravi effetti letali a cavallo fra novembre e dicembre 2019. Non voglio tornare sulla polemica. Mi sembra difficile che la Cina possa continuare a sostenere che ha dato tutte le informazioni necessarie. O cioè, delle due l'una: o il virus in Cina, nella zona di Hubei e Wuhan, ha colpito in maniera molto molto più morbida, quindi dobbiamo immaginare un altro virus, non lo so, una resistenza della popolazione cinese incredibile, oppure dobbiamo pensare che le informazioni sulla contagiosità di questo virus non siano arrivate in maniera corretta, che ci sia stata la volontà di, per orgoglio, per non danneggiare l'immagine cinese, di mettere un po' di polvere sotto il tappeto. Io continuo a dirla sta cosa, perché le proporzioni tra i casi confermati in Cina, 83.000, i morti 4.600, e un paese che ha più di 1 miliardo di abitanti, ma parliamo anche solo di Hubei, sono 60 milioni di abitanti, guardate in paesi analoghi, Italia e Francia, 60 milioni di abitanti più o meno, e anche Gran Bretagna, i casi sono il doppio della Cina, i morti sono 5 volte quelli cinesi. E quindi, quantomeno sulla la capacità di infettare che aveva questo virus e la mortalità, le informazioni che sono arrivate non sono corrette, oppure la Cina deve sostenere però che i casi suoi sono reali, quindi in Cina il virus ha colpito molto meno a partire dagli anziani, perché gli anziani esistono anche in Cina, e noi sappiamo che il tasso di mortalità negli anziani in Italia, ma non solo, ha toccato punte del 20% su chi era stato contagiato. Per cui però è intervenuto anche il ministro Di Maio. Ora, io facevo notare, ma non come polemica, come dato di fatto oggettivo, che l'Italia è il paese più morbido in questo momento nei confronti della Cina. Molte notizie e anche molta copertura mediatica per gli aiuti arrivati dalla Cina. Faccio notare che anche gli Stati Uniti hanno dato 100 milioni di una linea di credito di 100 milioni di dollari. Allora, oggi Di Maio in un'intervista dice: l'idea che in base agli aiuti che arrivano dall'estero possiamo cambiare le alleanze geostrategiche è un film tutto italiano. L'Italia è nell'alleanza euroatlantica, nella NATO, nella Unione Europea, ma è sempre stato un paese amico di tanti stati del mondo e ponte tra Oriente e Occidente. Abbiamo rafforzato, per aiutare il Made in Italy, le nostre relazioni con un partner commerciale strategico come la Cina. Questo non cambierà le nostre alleanze geostrategiche. Vabbè. Ecco, qualcuno mi dice: sono un lecca di Trump. Ecco, mi mancava questo. No, vorrei che tutto non passasse in cavalleria con un po' di mascherine e un po' di respiratori mandati dalla Cina, mi dispiace. Anche perché tutte le epidemie che abbiamo avuto in questi anni, anche qui non è un giudizio politico, un dato di fatto, arrivano sostanzialmente dall'Asia: SARS, aviaria, la suina no. Insomma, allora che la Cina ci dia garanzie come ha intenzione di combattere la commistione e la situazione igienica nei wet markets, per esempio, se ha intenzione di bandire definitivamente l'utilizzo di animali selvatici nella loro dieta e soprattutto con quelle regole alimentari, e poi ci deve far capire esattamente cosa è successo. Sì, poi sotto il tappeto è finito prima il medico cinese che aveva denunciato la malattia. E poi, ripeto, è una questione anche di dignità. Io non devo ringraziare la Cina di niente. Ma proprio di niente. E mi sarei aspettato, tanto lo devo dire, ce l'ho qua, dal ministro Di Maio una presa di posizione ancora più netta, visto che l'accusa, o meglio il sospetto, è che il partito che il ministro Di Maio rappresenta abbia, diciamo, un occhio di riguardo per la Cina. Allora, devi dire chiaramente che ti allini con Macron, con la Merkel più morbida, con i britannici, per dire che vorremmo capire anche noi esattamente che cosa è successo, avere qualche fonte un po' più trasparente da Cina, oppure no? O ricordi semplicemente che siamo nella NATO e siamo nell'Unione Europea? Grazie e Graziella, perché lo sappiamo, ci sono 30.000 soldati americani in Italia, da Napoli ad Aviano, lo sa anche il ministro Di Maio. Va bene, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Fitch oggi ha stimato un crollo del PIL italiano di 8 punti percentuali, ma è interessante anche la stima prodotta da Nobisma in collaborazione con Cribis sull'impatto dell'export italiano se rallenta il colosso tedesco, e anche la Germania è prevista in forte rallentamento. Meno 11 miliardi di export dell'Italia verso la Germania, pari al 20% delle nostre esportazioni. Nello specifico, metalli di base e prodotti di metallo meno 3 miliardi, 34% in meno, macchinari e apparecchi meno 1,6 miliardi, 19% in meno, mezzi di trasporto meno 1,6 miliardi, meno 22%, sostanze e prodotti chimici meno 1 miliardo, meno 24%, tessile, abbigliamento, pelle e accessori meno 800 milioni, meno 17%. Oh, adesso io dico una cosa, adesso non voglio parlare della Cina, però posso chiedere a chi mi fa il paragone con gli Stati Uniti, dovremmo fare la class action anche gli Stati Uniti per l'Iraq, il Vietnam, la Libia, la Siria, il Cile, l'Afghanistan. Allora, io sull'Iraq abbiamo sempre avuto grossissimi dubbi su quella inesistente, poi fantomatica arma batteriologica e quant'altro. Però faccio notare una cosa. Comunque non la pensi sull'Iraq, qui non stiamo parlando dell'accusa della Cina di aver fatto una guerra, o gli Stati Uniti di aver fatto una guerra sbagliata e anche devastante poi sull'equilibrio geopolitico di quell'area. Qui stiamo contando, faccio notare all'ascoltatrice, i morti e i feriti e il danno economico in Italia. Se lei vuole paragonare la scelta, a mio avviso sbagliata, degli Stati Uniti di invadere l'Iraq ai tempi di Bush figlio con quello che si dice, non si sta dando la colpa alla Cina, o meglio vedremo, non abbiamo nessun elemento per il virus in sé, si sta dicendo che la poco trasparente Repubblica Cinese, perché non è una democrazia, ho visto anche un sondaggio dell'SVG in cui gli italiani si fidano più della Cina che degli Stati Uniti. Ma ora io dico una cosa ai nostri connazionali, va ben tutto, posso fare mille critiche a Trump e alla gestione della Casa Bianca, ma vogliamo paragonare una democrazia come gli Stati Uniti, con libera stampa, liberi partiti, libertà di espressione, piace o non piace, con la Repubblica Popolare Cinese che arresta il medico, poi lo libera, intanto lui muore, e che continua a dirci che l'origine del virus è ancora sconosciuta e che a mio avviso non ci ha informato correttamente su quelle che era la reale contagiosità, soprattutto per certe fasce della popolazione? Abbiamo beccato anche le critiche quando abbiamo chiuso i voli sulla Cina, lo ricorderà il ministro Di Maio. E quello è l'atteggiamento? Nel frattempo però le mascherine e i soldi le va dati anche l'Europa alla Cina, 50 milioni, la Cina aveva strellato mascherine in giro per il mondo. Per favore, se la linea del governo cinese deve essere quella, sono accuse ingiustificate, non abbiamo fatto nulla, ed è un tentativo di screditare la Repubblica Popolare Cinese, è un'accusa che a me ricorda alcune accuse di politici italiani quando c'erano inchieste, è un congiura contro di me. Nessuna congiura, vorremmo solo delle domande, delle risposte a domande abbastanza ovvie. Andiamo sul primo tema, anzi restiamo sul tema degli aiuti alle imprese italiane, perché sulla parte italiana dunque Patuanelli ha detto appunto che con il decreto aprile saranno due mensilità con un aumento dell'importo, quindi si sta ragionando sugli 800 euro per gli lavoratori autonomi e partite IVA per altre due mensilità, quindi aprile e anche maggio, mentre nel decreto per la liquidità delle imprese saranno stanziati non meno di 12 miliardi. L'intenzione del governo è stata quella da subito di dare liquidità sospendendo quantomeno i pagamenti, che significa quindi aiutare le imprese sulla parte costi. Ovviamente non è stato sufficiente. Il decreto cosiddetto liquidità per la piccole e medie imprese prevede in particolare la garanzia al 100% statale fino a 25.000 euro. Il modulo non prevede 19 documenti, basta guardarlo online, sono in realtà tre facciate di cui c'è l'anagrafica dell'impresa, la dichiarazione sull'ultimo bilancio utile o l'autocertificazione, perché ci possono essere imprese che sono più recenti e che non hanno ancora depositato alcun bilancio o che non hanno ancora un conto economico, e semplicemente il fatto di non aver avuto o di aver avuto in che parti già garanzie statali, perché come sapete il fondo funziona a cumulo. Allora, sempre su Patreon, non voglio rispondere agli ascoltatori che continuano a fare un paragone Cina-Stati Uniti. Gli Stati Uniti possono avere colpe che volete, ma per favore studiate la storia in alcuni casi, non scherziamo. Allora, andiamo, qualcuno mi dice, ma se lei ha degli elementi per dare la colpa alla Cina, non ho detto la colpa, possiamo chiedere più trasparenza alle informazioni che ha la Cina in mano? Potevamo chiedere più trasparenza, cosa sarebbe cambiato, mi scrive qualcun altro, beh insomma... Se avessi detto che le proiezioni di morti qui erano al 13% dei contagiati, poi magari non avremmo fatto nulla, però almeno l'informazione sarebbe stata un po' più corretta. Basta. Ristoro diretto, dice Patonelli, alla SRL sotto i 10 dipendenti per quello che riguarda i 600 euro. Ci sono imprese che non sono comprese, penso alla SRL. Stiamo lavorando per le imprese con meno di 10 dipendenti a una misura di ristoro diretto che potrà garantire liquidità diretta e non a prestito. Ad oggi io vi posso dire che le misure del decreto liquidità ha portato 14.723 operazioni già garantite per oltre 2 miliardi di liquidità erogata. Di queste 10.500 sono le operazioni con il finanziamento al 100% sotto i 25.000 euro, per un totale da 24 milioni. Ovviamente io ricordo che il framework europeo è di poco più di 10 giorni fa. Il decreto liquidità è diventato operativo giovedì della scorsa settimana. L'autorizzazione della Commissione europea è arrivata il giorno di Pasquetta e già lunedì di questa settimana c'è stata i primi bonifici sui conti correnti, cioè in 12 giorni abbiamo reso operativa quella misura. Credo che non sia una misura da poco. Ancora andiamo con le altre notizie. Vabbè, Dadone oggi, la ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha detto che ha firmato la svolta di un anticipo fino a 45.000 euro del TFS. Poi per quello che riguarda l'Agenzia delle Entrate procederà a notificare 8 milioni e mezzo di atti nei confronti dei contribuenti senza proroghe, quindi per gli atti in scadenza a giugno. Io mi aspetto che, è vero che lo Stato deve iniziare anche a incassare, però mi aspetto che possa essere anche una proroga per alcuni settori sulle scadenze fiscali. Comunque, no, i 600 euro non si devono restituire, come lo scrive un ascoltatore. L'ABI, le banche italiane, Sabatini, l'ABI sta operando con tempestività e continuità, a stretto contatto con le banche associate per assicurare il sostegno alla liquidità. L'entità e la ferocia dello shock sono paragonabili a quelle di una guerra. È uno sforzo enorme, come la sfida che siamo chiamati ad affrontare, così appunto il direttore generale dell'ABI. È uno sforzo rilevante, uno sforzo che le lavoratrici, i lavoratori del settore bancario, i dirigenti delle banche, l'associazione cercano di fare col massimo impegno e la massima responsabilità, proprio nella convinzione che è necessario che imprese e famiglie possano ricevere rapidamente la liquidità per superare questa crisi, che altrimenti si riverberebbe inevitabilmente anche sulle banche e quindi rallenterebbe le capacità di recupero del paese. E poi chiede l'ABI di semplificare ulteriormente la modalità di accesso alla garanzia del fondo, soprattutto per le operazioni di minore dimensione, e propone l'ABI l'estensione della procedura facilitata senza valutazione del merito di credito per le domande relative fino ai 100.000 euro, cioè di estendere la procedura, che oggettivamente è più facilitata, per i 25.000 euro fino alle domande a 100.000 euro. Abbiamo due obiettivi, quello della celerità dell'erogazione e quello del rispetto del quadro normativo, che dovrebbero essere riconciliati e quindi dovrebbero essere forniti gli strumenti che possano accelerare la procedura di analisi del merito di credito da parte delle banche, provvedendo una tutela sotto il profilo penale dell'attività di erogazione del credito durante la crisi. Occorre in altri termini evitare che sulle banche e sugli esponenti aziendali siano trasferiti rischi che non possono essere riconosciuti come loro propri, laddove le misure di sostegno offerte alle imprese in attuazione di provvedimenti normativi non sortissero gli sperati effetti e le imprese, nonostante l'intervento, cadessero in stato di insolvenza con possibili conseguenze rispetto alle procedure fallimentari. E poi tutela legale sui prestiti oltre 25.000 euro, chiede appunto il direttore generale dell'ABI in audizione in commissione. Perché sostanzialmente occorre tutelare sotto il profilo penale l'attività di erogazione di credito durante la crisi, per evitare che sulle banche siano trasferiti rischi che non possono essere riconosciuti come propri, e anche questo ha chiesto Sabatini. Adesso andiamo però sul meteo e la pubblicità e poi parliamo dei titoli di Stato italiani, dell'andamento delle aste, del rendimento e anche dello spread, per arrivare poi a quella che si chiama proposta spagnola, cioè il debito perpetuo, un grande fondo dell'Unione Europea fino a 1.500 miliardi di euro finanziato con debito perpetuo, che verrebbe distribuito sotto forma di trasferimenti e non di debito tra i paesi più colpiti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Focus Economia. Allora, al di là delle attese per il consiglio di domani sul MES, io continuo a dire è inutile far battaglie ideologiche, vediamo se la condizionalità non è prevista quando lo accendi, quando ricorri fino al 2% del tuo PIL per spese sanitarie dirette o indirette. Bisogna però vedere cammello, che non ci sia una condizionalità che poi invece, una volta che tu hai attivato un meccanismo di aiuti, si sviluppi nel frattempo Moria Longo, capito bene? Sì, questo è il rischio, anche se da come l'ho capita io, però allora partiamo da un presupposto. Per ora c'è soltanto un accordo in sede di Ecofin, certo. Un accordo politico che va preso poi in sede di Consiglio Europeo, quindi servono tutta una serie di passaggi e poi alla fine va scritto, vanno esplicitati i dettagli, anche cosa significa spese indirette, siamo ancora nel mondo un po' dell'immaginazione, per cui i dettagli vanno ancora scritti. Per come si capisce adesso, le condizioni sono nulle, o meglio, l'unica condizione è che i soldi presi eventualmente dal MES vanno usati per spese sanitarie dirette o indirette, quindi non ci sono altre condizioni. Il rischio è che possano essere messe dopo. Nella realtà è uscito proprio un articolo l'altro giorno sul Sole 24 Ore di Isabella Buffacchi, che lei diceva che per cambiare le condizioni successivamente serve l'unanimità, per cui servirebbe l'ok anche dell'Italia. per cui che questo prestito possa cambiare condizioni nell'arco della sua vita è difficile, però è giusto che l'Italia questa cosa la pretenda scritta nero su bianco, e quindi va assolutamente contrattata e chiarita. Detto questo, quello che si capisce è che questo prestito non dovrebbe cambiare condizioni nella vita, se no non avrebbe neanche senso. No, ma poi bisogna stare, allora, bisogna da un lato vedere il cammello e quindi avere la certezza messa nero su bianco che le condizioni non solo non vi sono in ingresso, ma neanche durante, diciamo, l'esistenza di questo prestito. Perché parliamo di condizioni? Perché le condizioni del MES normale si chiamano poi troica, no? Ti vengono a dire come devi spendere i tuoi soldi e quant'altro. Però è anche vero che l'Italia deve stare attenta a rifiutare, a prescindere, non di attivare il MES, ma l'idea del MES, poi lo attivi se ne hai bisogno. Perché è difficile poi combattere una battaglia sui fondi che ti servono se dici che tu a prescindere non hai bisogno di 38 miliardi. Non hai bisogno di 38 miliardi di prestiti se ci sono delle condizioni capestro, ma ne hai bisogno, e come se ne hai bisogno, se le condizioni non ci sono. Veniamo alla proposta che sta emergendo spagnola. Invece di arrivare ai Corona Bond, agli Euro Bond, che abbiamo capito che non passeranno mai, si sta ragionando su questo Recovery Fund, quindi il fondo per la rinascita, per la ripartenza, da 1.000 a 1.500 miliardi. La Spagna, con dietro anche Francia e Germania, soprattutto Germania, dice: attenzione, potremmo avere un fondo finanziato da 1.500 miliardi, finanziato con debito perpetuo, che verrebbe distribuito sotto forma di trasferimenti e non di debito tra i paesi più colpiti dalla crisi. Poi deve essere attuato in tempi rapidi, cioè dal primo di giugno. Potrebbe essere questa la quadratura del cerchio, Moria? Allora, il debito per un bond perpetuo è un bond che non ha scadenza, sì, però paga gli interessi, perché in questi giorni c'è stato un po' di... No, certo che paga gli interessi. Paga gli interessi, ma non scade. Facciamo finta che come strumento finanziario potremmo paragonarlo a un'azione di risparmio con una cedola fissa, mettiamola così. Non scade mai, ma paga gli interessi semestrali, annuali, come sarà. Questa è sicuramente una proposta molto interessante, proprio perché si può pianificare quanto si deve accantonare per pagare gli interessi, ma appunto non ci sarà un giorno in cui questo bond scadrà. Bisogna soltanto vedere anche qui i dettagli. Bisogna capire, per esempio, se un bond di questo tipo potrebbe comprarlo la BCE. Questo non è ancora certo, o meglio, andrà definita questa cosa. Per cui se la BCE non potesse comprarlo proprio per la sua natura infinita, allora forse sarebbe meglio uno strumento, un bond che non sia perpetuo, ma magari che duri 50 anni, sì, o 30 anni. Esistono, perché è fondamentale che lo possa comprare anche la Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea darebbe certo una forte certo. Domanda a questo tipo, quindi sarebbe importante che lo comprasse. Per cui questo secondo me è un tema che andrebbe approfondito. Non ho la risposta, ovviamente la Banca Centrale e l'Europa che deve dare questa risposta, ma questo è sicuramente un tema. Dopodiché il bond appunto perpetuo senza scadenza è sicuramente una strada interessante, intelligente, anche una proposta spagnola, ma era arrivata anche in passato da altre parti, quindi non è un'idea nuova. Ovviamente, ripeto, bisogna vedere i dettagli, perché il diavolo sta sempre nei dettagli, e purtroppo l'Europa di diavoli nei dettagli ci ha abituato a metterne spesso, per cui bisogna vedere come effettivamente sarà. Sì, faccio notare che noi abbiamo avuto un debito, un'obbligazione redimibile, che poi ci siamo anche ricomprati negli anni 70, se non ricordo male, che valeva dai tempi dell'Unità d'Italia, e l'Olanda ne ha ancora una in circolo, emessa nel 1624. Non c'era la BCE e non c'era neanche Rutte, se posso aggiungere io. Però è chiaro che qual è il vantaggio per lo Stato? Che tu i soldi non li ridai mai. Alcuni ascoltatori mi scrivono: vabbè, ma io perché devo dare, poniamo, comprare 20.000 euro di obbligazione irredimibile se poi ho solo gli interessi? Per due motivi. Il perpetuo, sì, qualcuno mi dice che il vice ministro Castelli ha detto che il perpetuo era a tasso zero. Beh, spero che non abbia detto sta cavolata. Non esiste obbligazione a tasso zero, nessuno te presta, esistono anche tassi negativi, per carità, ma insomma è ovvio che il redimibile ha un tasso di interesse, e delle volte non ce l'ha neanche così basso, tant'è che... Però perché non è vero quello che mi scrive l'ascoltatore? Perché tu comunque potresti vendere, come si vendono le obbligazioni. Se io compro un BTP a 10 anni, non è che devo aspettare 10 anni per averlo, la scadenza, posso venderlo sul mercato secondario, Moria, e così capiterebbe anche a questa. Sì, Sì, esattamente. La logica di chi compra un titolo di questo tipo, a parte il fatto che bisogna vedere che tasso di interesse avrà, considerando che avrà una AAA come rating, quindi sarà affidabile perché è messo a livello europeo. Ma soprattutto la logica è quella di uno che compra, anche chi compra le azioni non ha mai un rimborso, però le compra lo stesso, perché sono quotate sul mercato, si possono vendere o comprare a seconda dell'andamento del prezzo ed hanno un flusso cedolare sicuro, certo, costante, a differenza per esempio delle azioni che non danno un flusso cedolare costante, e quindi gli investitori se ne possono trovare assolutamente, ovviamente dipende da che tasso di interesse offre, dalle condizioni, questo è fuori dubbio, ma non è che perché è perpetuo non lo può comprare nessuno. Anzi. No, ecco, i rendimenti sono anche alti e appunto immaginiamola, allora uno può immaginarla o come un lascito per i suoi figli, i suoi nipoti, tanto piuttosto che tenere i soldi in banca, almeno li metti e li fai rendere, e un domani tuo figlio, tuo nipote, ammesso che fosse a 50 anni non perpetua, puoi andare a riscattarla, oppure comunque sai che puoi andare a vendere sul mercato secondario. Attenzione, in base a come si muove il mercato delle obbligazioni puoi anche guadagnarci, Moria, perché sappiamo che se poi è considerata molto appetibile la riesci a vendere anche a un livello con un guadagno rispetto all'investimento iniziale, oppure qualcosa ci puoi perdere, ma sicuramente non riesce a ottenere la gran parte del capitale scontando gli interessi futuri, così? Sì, esattamente, essendo quotato può salire e può scendere, la logica di chi lo compra, a parte che non è detto che sia uno strumento per risparmiatori, anzi sinceramente non credo, per cui può darsi che, anzi più probabilmente sarà per investitori istituzionali, ci sono tanti investitori istituzionali che per istituzione devono comprare titoli a lunghissima scadenza, sì, anche penso per esempio ai fondi pensione e le assicurazioni che hanno un problema di erogare prestazioni a lungo termine, quindi devono investire anche i loro attivi in lungo termine, per cui ci sono gli investitori, ce ne sono di tutti i tipi. La logica, guardandola dal punto di vista di un risparmiatore, ammesso che possa mai comprarlo, è quella di avere una rendita. Io investo dei soldi oggi, avrò una rendita costante per tutta la vita mia e anche dei miei figli, tot euro che mi arrivano tutti gli anni, quasi come una pensione, una cosa del genere. Però ripeto, io non credo che sarà uno strumento per risparmiatori. Allora, grazie anche per questa precisazione. Stanno uscendo un po' di agenzie dopo l'incontro tra il governo e i sindacati sulle riaperture, mentre slitta domani il CDM di questa sera che riguardava il decreto finanziario. Adesso ne parleremo dopo il GR 24. Sì, molti mi stanno scrivendo, guardi che probabilmente sarà un investimento non retail, cioè non per i risparmiatori, è quello che ha detto Moria Longo, mi sembra assolutamente corretto, a partire dai fondi pensione, dai fondi che devono garantire flussi costanti per un periodo molto, molto lungo. Adesso andiamo sul GR24, però prima vi segnalo che continua lo scontro con la Cina. Il New York Times, citando fonti di 6 diverse agenzie di intelligence americane, sostiene che gli agenti dei servizi segreti cinesi hanno alimentato nello scorso mese di marzo una campagna di disinformazione sui social e via SMS mirata a diffondere il panico negli Stati Uniti per il coronavirus, con tecniche non dissimili da quelle utilizzate dalla Russia per influenzare le elezioni presidenziali del 2016. Staremo a vedere, grazie anche a Moria Longo. Andiamo sul GR24, poi l'aggiornamento della protezione civile e il tema riaperture. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. A meno che mi scrive sull'ipotesi dell'obbligazione redimibile un ascoltatore, non si acquisti a sconto, ma è la stessa cosa, cioè se l'acquisti a sconto comunque un rendimento, anche perché avviene così con le obbligazioni, il valore è 100, tu la prendi a 98 e ha un rendimento del 2. Qualcuno mi dice, ma guardi che il Bund è addirittura negativo. Ho appena spiegato che un conto sono obbligazioni, i botta un anno a 5 anni, dove tu non sai dove mettere in questo momento il capitale e accetti anche un tasso di interesse negativo, che è veramente neanche i Bund a 10 anni hanno rendimenti così bassi, capito? Per cui, e stiamo parlando della Germania, questa è un'obbligazione da 1500 miliardi per salvare, diciamo, l'Europa, senza scadenza o una scadenza che non abbiamo mai visto prima, 70 anni, tu puoi immaginare che non abbia rendimento, che sia rendimento zero, ma chi la sottoscrive una roba del genere? Comunque, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera Alberto. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Tu la compri a 50 anni a tasso zero? Ma io non sono un investitore, io sono solo un giornalista, diciamo la verità. Vabbè. No, è che ogni tanto bisogna anche conoscere quello di cui si parla, ma non voglio essere polemico. Allora, no dai. Vediamo cosa è uscito dall'incontro con i sindacati per ora, le parti sociali. Da quello che si è capito, chi guida la task force, Vittorio Colao, ha proposto di esonerare dal rientro al lavoro i sessantenni appartenenti ai comparti che dovrebbero aprire il 4 maggio, ma Conte avrebbe escluso questa ipotesi. Il presidente uscente di Confindustria Boccia ha chiesto di riaprire gradualmente alcune attività già dal 27 aprile e comunque di riaprire effettivamente in sicurezza dal 4 maggio. Ancora, da quello che i sindacati hanno riferito, che Conte nella videoconferenza ha detto che nella fase 2 ci sarà un allentamento delle misure restrittive, ma non in maniera indiscriminata, perché sarebbe dai responsabili, su questo possiamo assolutamente essere d'accordo. Potrebbero riaprire i settori manifatturieri delle costruzioni, oltre ad alcuni esercizi commerciali. Alberto, tu hai capito se però questo escluda che alcuni settori partano già dal 27, si era parlato della filiera della moda, della filiera del mobile e delle costruzioni? No, non dovrebbe escluderlo, anche perché ci sono state delle procedure che sono già avanti di autorizzazione in deroga da parte dei prefetti di alcune filiere o di zone o di distretti importanti, perché abbiamo visto con l'esperimento della cantieristica, l'abbiamo visto con alcune grandi maison della moda, alcune cose della meccanica, insomma, mi sembra di capire si stia giocando su più tasti questo tipo di operazione, e quindi quelle cose che sono già state utilizzate andranno avanti tranquillamente. Mi pare di capire che l'obiettivo adesso di Colau, da quel che si è capito dalle indiscrezioni, è di consentire il rientro al lavoro di qualcosa un po' meno di 3 milioni di lavoratori, grosso modo, in modo da gestire soprattutto la parte fuori dal lavoro, cioè i flussi del traffico, i sincronismi urbani, perché sono la parte più delicata e più importante, quella di evitare assembramenti, di evitare intasamento dei mezzi pubblici e tutto il resto, perché le aziende si stanno attrezzando per consentire una ripresa della produzione magari un po' più a rilento, graduale, in condizioni di massima sicurezza e di distanziamento sociale garantito, nonché con tutte le protezioni individuali del caso. Ora bisognerà vedere come poi articoleranno sul territorio questo tipo di operazione, anche se abbiamo visto, è stato chiaro, Conte ha detto le linee guida sono quelle nazionali, eventualmente ulteriori precisazioni da parte delle regioni non possono che essere più restrittive o peggiorative, per così dire. Non migliorative, questo è importante, cioè la regione può andare a stringere ulteriormente, non a allargare, ma questo abbiamo già visto con il primo DPCM e DPCM successivi. Sono 24 ore, diciamo, non invidiabili per il Presidente del Consiglio, perché da un lato appunto è alle prese con la fase 2 e anche con la pressione che arriva da alcuni partiti della maggioranza e la pressione che arriva anche dalle opposizione, e poi domani c'è il famoso Consiglio europeo con i vari capi di Stato e di Governo per capire come prenderà forma questo recovery bond, questa obbligazione, questo piano di salvataggio per l'Europa e che condizionalità avrà il MES. Mi sembra che nelle ultime ore, Alberto, sia Crimi dei 5 Stelle ma anche PD abbiano cercato di ricompattare un po' le file, perché qui il rischio è che Conte vada a Bruxelles indebolito, diciamo, dai mal di pancia interni? Beh, sicuramente c'è un problema 5 Stelle grande come una casa, perché lì le uscite di Battista hanno riproposto le tensioni al massimo livello, e addirittura la narrativa del pomeriggio è stata che si stanno mettendo le basi effettivamente per una scissione. Tanto è vero che questo tipo di destabilizzazione, che è stato il leitmotiv della discussione politica del pomeriggio, credo abbia avuto un impatto anche sullo spread, ed è anche sui mercati probabilmente stanno valutando questo tipo di fibrillazioni, che non considerano una banalità, perché dopo la partita delle nomine, la partita sull'atteggiamento da avere in Europa, la posizione di Conte è andata diciamo così smussandosi rispetto a certi oltranzismi dei 5 Stelle, quindi anche sul MES mi sembra di capire è finita un po' come con la TAV, ci saranno circostanze regolamentari che lo faranno rendere potabile anche, diciamo così, a un premier che è espressione poi dei 5 Stelle. Ma quelli, come diceva prima Mario Longo, basta capire appunto che le condizionalità non ci siano né quando lo attivi, ma neanche nel corso della sua durata. Va scritto nero su bianco, dopodiché, ripeto, non fermiamoci solo sul nome, l'importante è vedere nei dettagli e nelle pieghe, perché sappiamo che là può nascondersi il diavolo da questo punto di vista. Ora, Alberto, tutto questo, diciamo, sappiamo rischia di creare una spaccatura nei 5 Stelle. Tu la ritieni possibile, e a questo punto l'ipotesi è quasi che possa andare in aiuto del governo Forza Italia, per come ha votato, lo dico, non per altro. Questo hai ragione, voglio dire, sono scenari di fibrillazione di politica di basso cabotaggio, perché immaginare appunto adesso di andare a fare una spazzare i 5 Stelle non è che sia granché produttivo, perché comunque immaginare che tutto questo possa servire poi a far cadere il governo mi sembra una follia in questa circostanza. Naturalmente nessuno può prendersi questo tipo di responsabilità, neanche il più irresponsabile, diciamo così, dei portatori di bandiera di fazione, ma insomma, quindi sono scenari che rimangono poi delle implosioni interna corporis ai 5 Stelle, che sono in particolare difficoltà. Però è vero che qualora la cosa dovesse degenerare, per come capita ogni tanto, poi i meccanismi della politica, noi pensiamo sempre siano governati dal massimo della razionalità, poi lo vediamo in certi frangenti sono governati dal massimo della passione, che è tutto tranne che razionale. Un'ipotesi di un soccorso da parte di Forza Italia non è così peregrino, perché l'abbiamo visto, si sono creati, come posso dire, dei ponti, insomma, delle sì, anche dei voti trasversali su questo, certo. È stato evidente in questi giorni. Allora vedremo, perché poi c'è l'incontro anche alle 19 con le regioni, da lì dovrebbero uscire altri dettagli su questa fase 2. Grazie intanto ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Per ora è tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, e domani puntata sia su quello che sarà emerso sulla fase 2, ma anche e soprattutto sulla dialettica che sarà nel Consiglio Europeo, per capire a che punto vi sarà una quadratura del cerchio. A domani.